Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiremo poco dopo le notizie, in breve chiaramente, sul tema, con il tema turismo. Oggi ci sono vari dati. Da un lato, come sapete, lo abbiamo ricordato anche ieri, e anche i nostri GR24, l'Unione Europea oggi ha riaperto le sue frontiere esterne a 15 paesi terzi, a cui si potrebbe aggiungere la Cina, ma sulla base della reciprocità. L'Italia però ha deciso di tenere le sue frontiere esterne chiuse, ossia mantiene la quarantena obbligatoria, le 2 settimane di quarantena obbligatoria per tutti coloro che arrivano da una nazione non Unione Europea, anche se è transitato in un altro paese interno a Schengen. Ovvio che lì poi diventa più difficile il controllo, l'ipotesi appunto che uno voli dall'India o da altri paesi, Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia e Uruguay, appunto con la possibile aggiunta della Cina, però l'Italia mantiene la quarantena. Non cambia invece nulla per i paesi europei interni a Schengen. La libera circolazione c'è dal 3 giugno e poi il 15 giugno si è abbracciata, diciamo, tutta l'Europa. E questo è il dato, diciamo, sulle frontiere. Il problema, o meglio, quello che sta emergendo è un dato, da un lato molto preoccupante sulla stagione estiva, intesa come giugno. Lo dicono i rappresentanti delle spiagge italiane, dei balneari, è stato un mese a picco, nonostante il 3 giugno, come tutti ricordiamo, si sia aperto anche al spostamento tra regioni italiane, a causa anche delle condizioni climatiche del mese di giugno. Nel frattempo ci sono anche gli studi su quanto hanno speso l'anno scorso, sono studi della Banca d'Italia, i turisti che non arriveranno quest'estate, salvo novità dell'ultimo minuto e dell'ultima ora, penso agli statunitensi, dati impressionanti anche oggi dagli Stati Uniti, e penso anche ai russi. È chiaramente il primo mese, è stato, diciamo, deludente per vari aspetti, ma soprattutto cerchiamo di capire adesso come siano le prospettive sui 2-3 mesi che restano, cioè luglio, agosto e settembre in parte. Per quello che riguarda invece temi non di carattere italiano, o meglio, questo è un tema di carattere europeo visto che parliamo di frontiere, ma nella seconda ora del programma ci occuperemo del semestre di presidenza tedesca nel Consiglio dell'Unione Europea che porta appunto a 3 le donne nei ruoli chiave in questo momento per la gestione dell'Europa: von der Leyen per quello che riguarda la Commissione Europea, Lagarde alla Banca Centrale Europea e Angela Merkel come presidente di turno tedesca nel Consiglio dell'Unione Europea. Oggi Angela Merkel ha, diciamo, inaugurato il semestre tedesco parlando al Bundestag, illustrando alcuni punti chiave del suo programma e annunciando, cosa che non c'entra chiaramente con il Covid, che l'Unione Europea deve prepararsi anche per quello che riguarda la Brexit, allo scenario peggiore, cioè un no all'attuazione dell'accordo di recesso, soprattutto sui diritti dei cittadini europei quando viaggiano in Gran Bretagna, e il protocollo sull'Irlanda del Nord. Ha detto appunto la Merkel: dobbiamo anche immaginare la situazione in cui non vi sarà alcun accordo con la Gran Bretagna, e chiaramente la situazione peggiore per quello che riguarda gli scenari in quanto a Brexit. Mercati finanziari, così andiamo anche sulle introduciamo le notizie in breve. Allora, oggi sono tutti leggermente deboli, non in maniera così significativa, meno 0,15% Milano meno 0,11, Parigi meno 0,30, Francoforte, Londra è positivo di uno 0,11, Dow Jones invariato. Tra i titoli segnalo, ma ne parleremo più avanti, così come parleremo anche delle smentite sull'ipotesi BPM Monte dei Paschi, Nexi più 4,50, Recordati più 2,30, Inuit più 2, Mediobanca più 1,60, Campari più 1, come Italgas ed Era e Prismian. Fronte opposto CNH meno 2 come Pirelli e Banca Generali, l'1,80 europea di ST Microelectronics, l'1,70 Fiat Chrysler, il Banco BPM, l'1,60 il calo di Exor. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Partiamo come sempre dalle notizie di carattere internazionale. Dicevo gli Stati Uniti, nel raccontare di quanto hanno speso i turisti americani e statunitensi l'anno scorso in Italia, difficilmente li vedremo, anche perché in questo momento, come molti di voi sanno, c'è un blocco anche, e la richiesta di quarantena anche negli spostamenti tra stati e stati negli Stati Uniti. Sappiamo che adesso i contagi colpiscono soprattutto gli stati del sud, Texas, ma non solo, anche la California, quindi anche della costa orientale, e oggi ci sono stati, dunque si è toccato il record martedì, quindi ieri, il record di oltre 48.000 nuovi contagi in un giorno. Sono 8 gli stati che hanno contribuito: California 8.100 nuovi casi, Georgia 2.400, Texas 8.000 casi in un giorno, e tant'è che le autorità sanitarie statunitensi hanno fatto un appello in vista del 4 luglio, sapete, festa dell'indipendenza negli Stati Uniti. L'appello è di stare a casa, evitare gite, feste, assembramenti per i tradizionali fuochi d'artificio. E ci sono anche un po' di critiche sul modo in cui si sta rispettando nei vari stati americani il lockdown. Sicuramente in molti stati è stato un lockdown più morbido di quello che si è visto in Italia, ma anche poi in Spagna, in Francia e poi con più ritardo in Gran Bretagna. L'ONU, in un'indagine pubblicata oggi, stima che il settore del turismo a livello mondiale potrà avere una perdita, il settore turismo e i settori collegati, da 1.300 fino a 3.300 miliardi di dollari, una perdita devastante per l'industria del turismo che, come continuiamo a dire, anche nei prossimi mesi dovrà essere ancora aiutata dal punto di vista fiscale, e anche, immagino, con provvedimenti diretti a fondo perduto, distinguendo appunto tra settori e settori. Il turismo non ha nessuna prospettiva in questo momento di riprendersi in maniera, diciamo, adeguata, non solo in Italia, anche in Francia e in Spagna, per via appunto dell'assenza dei turisti stranieri e anche di quelle che saranno le spese dei turisti italiani. Ma ne parliamo fra un attimo, perché per quello che riguarda il dato sull'occupazione americana, sono stati creati a giugno 2.400.000 posti di lavoro. È un dato più basso delle attese, che scommettevano su quasi 3 milioni di posti di lavoro. Però il dato poi ufficiale sarà diffuso giovedì. Intanto dagli Stati Uniti arriva la notizia che il colosso americano Pizza Hut, che possiede anche la catena di ristoranti Wendy's, ha presentato istanza di fallimento. Praticamente sono 40.000 persone che lavorano nelle catene Pizza Hut e Wendy's, dice sostanzialmente la nota della società, che è la NPC International. La crisi è legata al coronavirus e a un debito di quasi un miliardo di dollari. Interessante notare che Tesla ha superato, a proposito del mondo delle auto, la Toyota, ed è diventata la casa automobilistica con maggior valore al mondo. La capitalizzazione di mercato per il colosso delle auto elettriche ha toccato i 207 miliardi di dollari contro i 202 miliardi di Toyota. Europa. Allora, c'è un dato che è l'indice PMI. Qualcuno mi ha criticato, dice, ma lei dice sempre PMI invece di dire piccole e medie imprese. No, guardi, sono due cose diverse. Dico PMI perché è il Purchasing Manager Index, cioè è l'indice dei responsabili d'acquisto, ecco perché lo dico in inglese. Quando devo dire PMI come piccole e medie imprese lo dico in italiano. Allora, è salito l'indice dei responsabili acquisto del settore manifatturiero nell'area euro a 47,4 punti, siamo ancora sotto i 50 punti, che come ricordiamo sempre distinguono, sono nella demarcazione tra espansione economica e recessione. Sopra i 50 punti è un indicatore che segnala una tendenza alla crescita economica, sotto i 50 punti alla stagnazione o recessione economica. Siamo ancora sotto i 50 punti, però è risalito di dai 46,9 di maggio a 47,5 a giugno. La disoccupazione in Germania è salita al 6,4% come il 6,3% contro il 6,3% di aprile, e in Gran Bretagna per la prima volta dal 2012 calano i prezzi delle case. Il gigante delle costruzioni Nationwide ha diffuso i dati. C'è stato un meno 0,1% nel valore delle case a giugno rispetto a giugno del 2019, con un recupero, era ancora più forte il calo a maggio, un parziale recupero a giugno. Veniamo all'Italia, l'indice, scusatemi, lo spread è a 165 punti, l'indice PMI, anche qui, dei responsabili acquisti delle manifatture italiana, migliora anche in Italia e sale a 47,5 punti, migliora più che nella media europea, guadagna 2 punti rispetto a maggio, è il livello più alto dal febbraio scorso, ma appunto resta sotto i 50 punti. Come ogni giorno i dati sulle prestiti e moratorie bancarie. Oggi l'ABI ha diffuso i dati sulle moratorie, sono salite le moratorie sui prestiti, sono salite a quota 700 a 280 miliardi il valore complessivo, mentre sono salite a quota 740 mila le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le piccole e medie imprese presentate al fondo di garanzia. E anche in questo caso la stragrande maggioranza riguardano come numero l'importo fino a 30.000 euro. L'ABI, citando i dati della task force congiunta con Banca d'Italia, MEF, SACE e Medio Credito Centrale, sottolinea come è stato erogato l'80% delle domande dei prestiti. E SACE, attraverso Garanzia Italia, SACE si occupa della parte anche più alta dei prestiti, ha erogato 8 miliardi su 142 richieste ricevute. La produzione industriale, il Centro Studi di Confindustria ha calcolato l'andamento del secondo trimestre. Allora, nei primi tre mesi la produzione industriale italiana aveva fatto meno 8,5%, è chiaro che però c'era solo parte di marzo a pesare, gennaio e febbraio invece no. Invece il secondo trimestre, quindi aprile, maggio e giugno, vede un crollo dell'attività della produzione industriale del 21,6%, e nello specifico meno 18,9% a giugno rispetto al giugno 2019. Invece giugno rispetto a maggio ha fatto un più 4%, maggio era stato diciamo un mese anche peggiore, meno 29%. E la Banca d'Italia stima il calo del fatturato delle imprese nel 2020 intorno al 7%, la media del calo di fatturato. La contrazione più forte, visto che appunto ci teniamo a parlare di settori e riuscire, se si può, a distinguere il più possibile, la contrazione più forte sia nel settore commercio e alberghiero. Questo è il dato da fine gennaio a metà maggio, meno 37,5% il fatturato del comparto alberghiero e ristorazione. Poi tessile, abbigliamento, pelli e calzature, meno 32%. Che c'è un problema anche culturale i negozi di abbigliamento sono aperti, ma non sfugge a nessuno che, vista la situazione tra smart working, impossibilità di creare aggregazioni e anche insomma tutto un insieme di attività ludiche o di eventi che sono tuttora sospesi, e beh, c'è un contraccolpo molto forte di carattere culturale. Non è che si ha paura ad andare nel negozio a comprare un abito, il problema è che non hai nessun interesse a comprarlo l'abito, per dirlo in maniera un po' brutale in questo momento. E un po' vediamo quello che è capitato dopo il 2009, cioè uno apre l'armadio e scopre che ne ha già di capi d'abbigliamento, se non ha motivi per comprarne di nuovi, e i motivi in questo caso sono di carattere sociale, culturale, non sono di carattere epidemiologico. Il problema non è entrare appunto nel negozio, è se hai voglia di entrare, se ti serve entrare nel negozio di abbigliamento. L'abbigliamento è molto colpito da questo, pelle e calzature. Comunque insomma, l'occupazione invece dovrebbe contrarsi solo dell'1,3%, ma questo grazie al ricorso, all'ampio ricorso alla cassa integrazione. Questo è sempre relativo ai mesi di gennaio e metà maggio, è sempre come studio della Banca d'Italia. Allora andiamo alla parte che riguarda anche il turismo. Prima di arrivare al turismo, però, alcuni dati di oggi che riguardano i consumi degli italiani, delle famiglie italiane. 349-238-6666 per sms e whatsapp, e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, le famiglie italiane e i consumi interni delle famiglie italiane caleranno del 9,7% quest'anno, e lo studio fatto da Prometeia e LegaCoop. Allora, meno 9,7%, l'anno prossimo più 5,1%, una botta comunque nei consumi forte. Guardate che nei consumi le percentuali non sono mai altissime, quindi anche una variazione del 3, 4, 5% è una variazione molto forte, perché parte dei consumi sono incomprimibili, quindi mantieni al 100 i consumi che ritieni non incomprimibili, penso il genere alimentari e quant'altro. Quindi questo 9,7% medio si scarica poi su alcuni consumi, è una media un po' di trilussa, non è una media che ti dà la fotografia dei singoli settori. Alcuni consumi li tieni a 100, magari alcuni li aumenti pure, penso i consumi per il digitale, e altri li porti a meno 20, meno 30. Allora, crescerà la propensione al risparmio di 6 punti percentuali, il valore più alto negli ultimi 20 anni. Ecco perché aggiungo, secondo me, le manovre in questo momento di riduzione dell'IRPEF o addirittura di IVA non so che effetto possono avere, perché se anche hai più soldi in busta paga, da oggi parte la riduzione del cuneo fiscale, 100 euro perché non li hai avuti, e gli 80 euro di Renzi che diventano 100. Però se questa è la sfiducia nel futuro, e se tutte le indicazioni, gli indicatori ci dicono che c'è un aumento sia oggettivo che anche in prospettiva del risparmio, tu rischi di dare soldi pubblici attraverso minore pressione fiscale o quant'altro ai cittadini che poi non li spendono, e quindi tu hai un aumento del deficit ma non hai un aumento dei consumi. L'altra soluzione, che personalmente prediligo in questo momento, è invece fare seriamente un piano di investimenti, e stiamo attendendo tutti con ansia il DL semplificazioni. Ne ha parlato anche il Premier Conte al Question Time alla Camera, cioè il DL che deve portare a rendere subito appaltabili e proseguire i lavori delle opere già appaltate. L'unico settore dove si registreranno consumi in crescita è quello dei prodotti alimentari, più 3,6%, beni durevoli meno 20%, servizi meno 12%, altri beni meno 9%. Nel 2021 dovrebbe invertirsi questa dinamica, a dimostrazione che se c'è più fiducia nell'anno prossimo, i beni durevoli faranno più 10%, gli altri beni più 8,7%, i servizi più 5,6%. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'assenza di fiducia fa sì che tu posticipi alcuni acquisti per beni durevoli, beni durevoli sono l'automobile, il frigorifero, gli elettrodomestici, giusto per citarne alcuni, poi ci sono i beni semidurevoli, posticipi d'acquisto e pensi di farlo nel 2021. Nel frattempo la Caritas ha fatto sapere che sono arrivate 450.000 richieste di aiuto nei tre mesi più difficili della pandemia, marzo-maggio, 450.000 persone, di cui il 61% italiane, il 34% sono nuovi poveri, cioè persone che si sono rivolte per la prima volta alla Caritas, 92.000 famiglie hanno avuto accesso ai fondi diocesiani e oltre 3.000 famiglie hanno usufruito di attività di supporto per la didattica a distanza. Come ha raccontato Walter Nanni dell'ufficio studi di Caritas Ambrosiana, al microfono della nostra Cristina Carpinelli. Abbiamo cercato di capire in che tipo di bisogni, che tipo di domande emergono dalle persone che si sono rivolte alla Caritas nei mesi di marzo, aprile e maggio, ed emerge una situazione di forte criticità soprattutto per quello che è stato il numero di persone. In tre mesi 445.000 persone e 130.000 nuovi poveri. Per nuovi poveri intendiamo persone che non si erano mai rivolte alla Caritas in precedenza. In questi tre mesi sono circa 40.000 ogni mese. Quali sono i bisogni più impellenti? Di cosa hanno bisogno questi cosiddetti nuovi poveri? L'acquisto di farmaci e prodotti sanitari sono molto, molto frequente, l'orientamento sulle misure, cioè capire che cosa è possibile avere rispetto alle misure, ai benefici, alle nuove norme che sono state introdotte, i vari bonus, l'aiuto a domicilio, la fornitura di pasti. Anche tra gli operatori della Caritas ci sono state delle vittime del Covid, così? Ci sono deceduti 20 operatori o volontari della Caritas. Abbiamo avuto quasi 180 casi di operatori e volontari risultati positivi e un centinaio ricoverati. Allora, altro tema che trattiamo nelle nostre parte in breve e non come approfondimento, il tema delle regolarizzazioni. Allora, le domande di regolarizzazione presentate nel primo mese della procedura sono 80.366. 70.000 già perfezionate, 10.000 in corso di lavorazione. Il dato del Viminale è in costante crescita, però, dico però, insomma, forse non c'è neanche bisogno di un però, visto che ricorderete c'era stato un accorato appello per le regolarizzazioni, soprattutto nel mondo dell'agricoltura. In realtà il dato ti dimostra che la maggior parte delle regolarizzazioni sono per lavoro domestico e assistenza alla persona, quindi colf e badanti, l'88%, mentre la parte agricola è minoritaria. Come ha ricordato Francesca Puglisi, sottosegretario del lavoro, questa mattina ospite Effetto Giorno con il microfono del nostro Alessio Maurizi. La possibilità di presentare le domande è stata prorogata al 15 agosto, dunque un'opportunità che continua ad essere aperta appunto per un ulteriore mese rispetto a quanto previsto. Peraltro nel decreto rilancio sono presenti alcuni emendamenti e quindi ci sono possibilità di apertura anche a ulteriori settori rispetto a quello agricolo e al lavoro domestico, i colf e badanti. Le domande stanno arrivando, pensiamo che la riluttanza soprattutto degli imprenditori agricoli sia dovuta all'incertezza circa il pagamento dovuto per la regolarizzazione, cosa che sarà chiarita al più presto perché manca l'ultimo parere del MEF sul decreto ministeriale. Come sapete, il fabbisogno di manodopera agricola non è ovviamente solo destinato a chi verrà regolarizzato, ma noi avevamo inserito anche, ed è già legge, nel decreto rilancio la possibilità di partecipare alla stagione agricola anche a chi oggi è in cassa integrazione o sta percependo il reddito di cittadinanza. C'è una novità proposta da ANPAL per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. È un'app che si chiama Resto in Campo, dove appunto si possono presentare la propria offerta, insomma la volontà di lavorare per la stagione agricola, e dà la possibilità ai datori di lavoro di attingere da questo portale. Adesso andiamo sul meteo e poi ripartiamo con l'attesa per il DL semplificazioni. Io sono d'accordo con Conte, che ha detto oggi il Presidente del Consiglio è indispensabile per la ripresa, e appunto fatelo. Qualcuno mi dice: guardi che io, a me se danno soldi in più io in busta paga li spenderò. Sì, non ho dubbi che alcuni lo faranno. Il problema è capire dove ottiene la maggiore efficacia, fermo restando che se sappiamo utilizzare i soldi messi a disposizione anche dall'Europa, oltre che con i bassi tassi di interesse della Banca Centrale Europea e allo sforamento di deficit che ci è stato consentito, puoi riuscire a fare anche operazioni in busta paga. Però a mio avviso in questo momento, per ridare fiducia, bisogna costruire. Sono d'accordo con Johnson una volta tanto: costruire bene e senza rubare. A questo proposito mi fa piacere che l'ATM, dico per inciso, abbia interrotto tutti i rapporti di lavoro con le ditte coinvolte nello scandalo dell'inchiesta. E quindi insomma il direttore generale di ATM, Arrigo Giana, l'ATM ha rescisso tutti i contratti con le ditte coinvolte. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo sul meteo e poi torniamo a DL semplificazioni e l'estate che verrà, che già c'è, ma che verrà, e i dati alla mano. Focus Economia. Allora, vedo che alcuni vorrebbero che commentassi il video promozionale della Regione Calabria, che sostanzialmente dice: venite qua al nord, ci si ammala. E altri vorrebbero che commentassi l'iniziativa del Comune di Verona. Poi il Comune di Verona, su capitolo, ha tolto l'appoggio di votare per il Verona Exit, l'uscita di Verona dall'Unione Europea. Allora, ambedue mi sembra che possono entrare nella categoria, diciamo, filosofica della corazzata Potemkin. Andiamo sul resto. Allora, sì, intanto su cose serie faccio notare che c'è una società in Italia che si chiama Dentix, che ha presentato il concordato preventivo in continuità e in ginocchio. Aveva già difficoltà finanziarie esistenti, in ginocchio dopo il lockdown, e questo serve per tutelare creditori, dipendenti e collaboratori. Comunque, il DL semplificazioni indispensabile per la ripresa, lo definisce il Premier Conte, il Question Time alla Camera. Non c'è solo la semplificazione sugli appalti, c'è anche un elemento a mio avviso fondamentale, che si chiama la paura della firma, come l'ha chiamata Conte, cioè l'abuso d'ufficio, diciamo, non paralizzare tutti i dirigenti della pubblica amministrazione per la responsabilità che si prendono quando firmano. Paura della firma per i dipendenti pubblici, di questo ha parlato Conte, sentiamo. Io ho definito questo decreto legge la madre di tutte le riforme, che lo ritengo indispensabile insieme a tutto il governo per modernizzare l'Italia, tornare a far correre il paese, ed è per questo che in queste ore a livello governativo, col coinvolgimento delle forze di maggioranza, ci stiamo confrontando in maniera costruttiva per trovare le soluzioni migliori. Le misure che saranno introdotte con questo decreto legge sono volte a produrre un'accelerazione, una semplificazione dell'iter di realizzazione delle opere, e sono accompagnate, tengo a precisarlo, anche da un rafforzamento dei presidi di legalità. Per quanto riguarda la fase dell'affidamento delle opere, si prevede una semplificazione delle procedure esistenti, consentendo alle stazioni appaltanti anche di affidare i contratti in modo più semplice e più rapido per questo periodo transitorio che abbiamo individuato. Cavolo, Conte in versione DJ. Vabbè, piacerà a Casalino. Allora, andiamo avanti invece con la busta paga o i consumi, perché adesso vorrei parlare dell'estate. Qualcuno continua a dire, a lei non piace l'idea di alleggerire l'IRPEF? No, non è che non mi piace, ho solo detto che secondo me per far ripartire l'economia lì è il rischio, come ci dicono tutte le proiezioni, stanno aumentando i risparmi degli italiani, cioè uno non spende perché non ha fiducia nel futuro, vuole capire cosa succederà. Poi c'è l'OMS, l'ineffabile OMS, che ti dice che forse la seconda ondata sarà peggiore della prima, la stessa che disse che le mascherine non servivano. Ma comunque da oggi è partito, come ha ricordato il ministro Gualtieri, per i lavoratori chiaramente dipendenti, per 4 milioni e 300 mila lavoratori avranno da 80 a 100 euro netti al mese. Chiaramente sopra i 24.000 euro di reddito lordo il beneficio è a calare, e gli 11 milioni di lavoratori che già percepivano gli 80 euro di Renzi arriveranno a 100 euro netti, compresi quelli che avevano il beneficio calante sopra i 24.000 euro, e questo non ho niente in contrario. Altra cosa è, qualcuno mi dice, ma come fa allora a dare soldi alle famiglie ma essere sicuri che li spendano? Per esempio, se dai dei bonus, allora in quel caso il bonus è un costo per lo Stato solo se lo attivo. Il bonus vacanze funzionerebbe così, uso il condizionale, perché è un pochino complicato. Comunque l'ultimo dato di qualche minuto fa è che alle 16 di oggi, era il primo giorno del bonus vacanze, sono stati erogati più di 110.000 bonus vacanze per un valore di oltre 50 milioni di euro. Adesso vi ricorderò anche come funziona. Intanto ringrazio per averci aggiunto in collegamento Antonio Capacchione, che è presidente del sindacato italiano Balneari, aderente a FIPE Confcommercio. Buonasera. Buonasera a voi. Mamma mia, che voce! Sta con la voce così, in qualche modo anticipando quello che è l'andamento di giugno, Capacchione. Ma insomma, non è andata bene a giugno, ma tra l'altro lo si prevedeva. Il problema è che si sono aggiunte anche le condizioni atmosferiche avverse, particolarmente importanti e determinanti nel momento in cui si è verificato un fenomeno di concentrazione delle presenze nel fine settimana. Qui se salta la domenica, salta l'incasso settimanale. Certo. Comunque si è ripartiti, e questo è un dato positivo. Ecco, dopo il traffico le chiederò anche di dirci dove si è, ho visto che i dati vostri per esempio segnalano una situazione preoccupante in Sardegna, meglio in altre regioni, rispetto appunto alla presenza del giugno di un anno fa. Ho visto Sardegna meno 80%, Lazio e Molise meno 75%, meglio in Toscana che ha fatto meno 30%, e anche meglio in Liguria che ha fatto meno 45%, in Emilia Romagna meno 40%, Veneto e Abruzzo meno 50%. Vorrei capire questo strano turismo di giugno rispetto agli anni scorsi come si è mosso, perché le differenze sono abbastanza impressionanti. Anche la Campania ha fatto meno 70% dopo il traffico. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Allora Capacchione, dato non è, anzi brutto su giugno, però le differenze sono abbastanza forti, quelle che voi avete ricordato tra regione e regione. Appunto si va dal meno 80% in Sardegna o meno 75% in Lazio o 70% in Campania a cali molto più contenuti, cioè meno 30% in Toscana e meno 40% in Emilia e Puglia. Allora, questo dato naturalmente riflette sia l'incidenza delle condizioni atmosferiche di cui parlavamo poco fa, ma anche dalle caratteristiche del turismo. Se pensiamo alla Sardegna, l'incidenza del turismo internazionale o del continente, diciamo, era abbastanza elevato. Naturalmente questo ha comportato una maggiore penalizzazione della Sardegna rispetto ad altre regioni. Quindi questo dato deve essere letto alla luce sia delle condizioni atmosferiche che hanno inciso parecchio, come dicevamo prima, stia anche dalle caratteristiche del turismo nelle diverse regioni. Dove c'è stata la maggiore presenza di turismo domestico, naturalmente la perdita è stata più contenuta. Più in generale notiamo questo, c'è una grande voglia di vacanza. Le previsioni per luglio-agosto sono previsioni che ci inducono ad essere ottimisti. Bene. Probabilmente questa concentrazione delle vacanze influirà anche sul buon andamento di luglio, ma soprattutto di agosto. Beh, speriamo, perché sennò è una tragedia. Allora, tra l'altro, chi mancherà? Ricordavo in apertura che l'Italia ha deciso di tenere le frontiere esterne chiuse, quelle fuori Schengen, e mantenere la quarantena obbligatoria per tutti coloro che arrivano da una nazione non dell'Unione Europea, anche se si è transitato in un altro paese interno a Schengen. Il problema lì è beccarti, perché se tu arrivi via Francoforte, abbiamo visto che è più difficile. Comunque, c'è un dato oggi interessante su quanto lo ha riportato la Banca d'Italia, ma quanto peserà l'esclusione dei turisti americani e russi, anche brasiliani, perché restano fuori, c'è una lista di 15 paesi che per l'Italia vuol dire comunque quarantena anche per questi 15 paesi. Poi restano fuori gli Stati Uniti, la Russia e il Brasile, che Bruxelles ha detto che rivedrà ogni due settimane in base all'andamento dell'epidemia, ma non mi sembra che arrivino buone notizie, anzi da lì. E faccio notare che secondo la Banca d'Italia i clienti americani l'anno scorso sono stati 4.400.000, hanno speso 5 miliardi e 500 milioni. La spesa pro capite dei russi invece è di 173 euro al giorno contro i 117 di media degli altri stranieri. Su 84 miliardi di spesa dell'anno scorso, più della metà, 44, sono imputabili agli stranieri. Ora, anche immaginando che molti italiani restino in Italia, non è pensabile una sostituzione del doppio, non ce la potremo mai fare. Sentiamo Marina Lanli, presidente Federturismo Confindustria, questa mattina a 24 mattino con Simone Spezia. Questo è un dramma che si aggiunge al dramma che il turismo italiano già sta vivendo. Perché sì, lei dice bene, cioè i turisti americani per noi sono un mercato imprescindibile, stiamo parlando di quasi 5 milioni di persone che però spendono oltre 5 miliardi di euro, quindi non è un turista di cui si fa meno a cuor leggero, e di conseguenza non poterli avere, e a questi ci aggiungo anche i russi che al momento sono in questa lista, è un problema serio, e soprattutto perché le città d'arte, che sono quelle che anche d'estate sono visitate da questi stranieri, nel momento in cui non hanno questi stranieri, gli italiani difficilmente di estate vanno nelle città d'arte, diventano completamente spopolate, e lì abbiamo anche buona parte dei nostri delle nostre strutture ricettive più di lusso, quindi sulle quali si è investito anche molto. Ma poi le strutture di lusso sono quelle frequentate da questi turisti, e quindi non averli qui è veramente un dramma serio. Ora io non discuto da un punto di vista sanitario qual è la decisione più giusta, però se questa è la decisione più giusta, allora bisogna che ci siano anche aiuti proporzionati a questa decisione. Chi viene in un luogo non lo fa per confinarsi, lo fa per visitarlo agevolmente, per muoversi e per anche muoversi da uno stato all'altro. Ritornando sempre agli americani, loro dicono vado in Europa, perché per loro l'Europa è come fosse, diciamo, un paese unico, quindi dire che devono rimanere confinati per diversi giorni in uno stesso posto significa poi far saltare quel posto e farli andare altrove. Allora, Capacchione, due domande ancora sul tema che toccava la Lali. Il primo, il distanziamento, le regole, diciamo, anti-Covid. Voi le citate poco, mi sembra, questo vuol dire che i vostri associati, cioè gli stabilimenti balneari, alla fine su questo hanno meno problemi di quanto non si immaginasse. Cioè, il problema vero è l'assenza di stranieri e il meteo e anche, diciamo, le ripartenze, i voli, per esempio, per la Sardegna, ma non il distanziamento? Ma in effetti è così, come diceva la dottoressa Lalli, qui abbiamo la necessità di far ripartire il turismo internazionale, che incide per il 50% delle presenze dello scorso anno, sul complesso appunto delle presenze turistiche italiane. Il distanziamento ha penalizzato fortemente le località di mare con una profondità ridotta delle spiagge, dove c'è una profondità maggiore, penso all'Emilia, ma anche alle località del sud, ci sono delle spiagge dove la profondità rende facilmente adeguabile alle regole imposte dalle autorità amministrative, dove invece la profondità della spiaggia è ridotta, penso al Salento, penso alla Liguria, penso al Salernitano, è ovvio che ha inciso in modo notevole e ha penalizzato grandemente gli stabilimenti balneari. Però ciò che preoccupa è la difficoltà nella mobilità e l'assenza del turismo internazionale. Allora, vedo che molti ascoltatori, e l'ultima domanda che ho per lei, Capacchione, le chiedo una risposta, però lamentano anche un aumento dei prezzi, lamentano l'assenza di scontrini, vedo il litorale Flegreo, Comacchio, vabbè, lì gli scontrini pagate col POS e vedete che lo scontrino arriva, l'esercente non si può rifiutare di avere il POS. Però, dicevo, lamentano anche un aumento dei prezzi. Non è che qua rischiamo di, per far cassa in meno mesi, di aumentare i prezzi, poi vi lamentate che la gente non arriva, ma io se i prezzi aumentano o riduco le vacanze o non le faccio proprio? Ma guardi, la situazione, anche le associazioni dei consumatori hanno certificato che gli aumenti dei prezzi sono molto contenuti a macchia di leopardo, anzi in determinate realtà c'è una riduzione dei prezzi, perché l'assenza della domanda induce gli operatori non ad aumentare i prezzi, ma a ridurli. Tra l'altro l'evasione è un fenomeno sempre più contenuto quest'anno, a maggior ragione perché c'è un tracciamento, tutti gli stabilimenti balneari sono tenuti a tracciare le presenze nel proprio stabilimento balneare, quindi si tratta di fenomeni patologici in via di esaurimento, comunque grandemente ridotti. E in una battuta, lei si attende qualcosa di buono dal bonus vacanze, visto che i dati di oggi sono alti come numero, 110.000 bonus erogati fino alle 16 di oggi, sì o no? Ma i servizi balneari sono esclusi, sì, certo, dall'utilizzo dei bonus vacanze. Se vado in albergo, magari poi vado anche al bagno. Noi ci auguriamo che funzionino, abbiamo grandi dubbi per la farraginosità del meccanismo. Allora, grazie intanto anche a Capacchione per quello che riguarda gli stabilimenti balneari. Dopo il GR24 parleremo di come funziona questo bonus turismo e anche il bonus, l'eco bonus al 110% anche per le seconde case. Grazie al presidente del sindacato italiano balneari Antonio Capacchione, GR24. Focus Economia. Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, l'aggiornamento della protezione civile. Allora, dunque, i decessi sono 21, mancano alcuni dati di carattere clinico, cioè il numero di ricoveri in terapia intensiva e dei ricoveri complessivi. Vi do i dati che sono stati diffusi. I decessi sono 21, in calo rispetto ai 23 di ieri. I nuovi positivi sono 182, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 142, di questi 109 casi su 180, quindi il 60% sono in Lombardia. Ieri faccio notare che c'è stato un numero molto alto di tamponi, adesso aspettiamo anche il dato, sappiamo che insomma, i nuovi positivi, specie se asintomatici, si basano sul numero di tamponi effettuati, aspettiamo il dato sui tamponi. Invece per quello che riguarda il turismo sono arrivate durante il GR24 numerose segnalazioni di aumenti di prezzi, Varazze, Liguria, Veneto, Toscana e quant'altro. Io non so cosa dire, anche su bar e ristoranti. Altri mi dicono guardate che gli scontrini sono un miraggio in spiaggia anche nella Riviera Romagnola. Un altro ascoltatore mi scrive oggi a Grado, ho speso 20 euro in un bar, non ho potuto pagare con il POS, era rotto, niente scontrino, non ero appunto ed ero a Grado, capito? Che devo fare? Certo che se lo Stato avesse dato l'obbligo, allora con oggi è entrato in vigore l'obbligo per tutti gli esercenti che ancora non ce l'avevano del POS, e poi si scende a 42.000 il contante che si può utilizzare. Tra l'altro vi è anche il bonus POS per i commercianti, perché puoi recuperare il 30% delle commissioni applicate dalle banche o da altri operatori finanziari, appunto andando in credito d'imposta. Il problema della legge che scatta con oggi è che ha eliminato, l'articolo 23 del decreto, ha eliminato la sanzione nel caso tu non abbia il POS, e allora è un obbligo senza sanzione. A casa mia l'obbligo senza sanzione si basa sulla buona volontà. Perché? Perché non c'è una sanzione per i commercianti che non lo utilizzano, che dicono appunto che è rotto. Alcuni mi dicono che in Valpusteria ti fanno lo sconto se paghi in contanti. Sì, so che i 2.000 euro in contanti possono essere il limite dei 2.000 euro, può essere aggirato dando diverse tranche. Poi segnalo invece anche, perché appunto i casi sono moltissimi, mi ha scritto un ascoltatore che ha lavorato come cameriere in una società di catering con contratto intermittente, escluso dal primo bonus Covid in quanto non previsto come categoria, nel secondo decreto, quello rilancio, ha fatto la domanda, non gli hanno ancora risposto. Da febbraio non percepiscono né stipendio né sussidio, come pensano che possa sopravvivere la nostra categoria? E quelli sono tutti i casi che non rientrano nella cassa integrazione, neanche quella in deroga, che non hanno avuto, ma soprattutto qui bisogna velocizzare ulteriormente i tempi dei bonus, quelli aprile e maggio perlomeno. Allora, dicevo del bonus turismo, complicato, secondo alcuni comunque il gioco vale la candela, però complicato, secondo me si poteva semplificare con semplicemente una detrazione un po' più facile. Comunque, il bonus vacanze è di 150 euro per le famiglie con un solo componente, 300 euro per le coppie e 500 euro invece per le famiglie con un figlio o più. Allora, il governo ha destinato 2 miliardi e 400 milioni, il bonus viene erogato attraverso la app Io, cui si accede o con lo SPID o con la carta d'identità digitale, che genererà un codice, un QR code da presentare alle strutture che aderiscono all'iniziativa. Su questo segnalo che c'è stato un protocollo d'intesa tra le banche italiane, l'ABI e Confindustria Alberghi, proprio in materia di bonus vacanze. Allora, lo possono richiedere i nuclei familiari con un reddito ISEE fino a 40.000 euro. Che, ripeto, si va al massimo a 500 euro per nucleo familiare e è usufruibile in questo modo: l'80% è uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore del servizio, il restante 20% come detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi, e lo sconto dell'80% sarà rimborsato al fornitore del servizio dallo Stato sotto forma di credito d'imposta. Cioè, quindi poniamo che l'80%, cioè 400 euro di sconto, poi l'albergatore li avrà come credito d'imposta, l'altro 20%, cioè 100 euro mancanti sostanzialmente, io li avrò come detrazione d'imposta quando andrò a fare la dichiarazione dei redditi come famiglia. Però il protocollo firmato da ABI e Confindustria vuole snellire questa procedura, che non è la più facile immaginabile, e quindi l'efficientamento dei processi di gestione del credito fiscale tra appunto gli associati a Confindustria Alberghi e le banche italiane. L'altro bonus di cui molto si parla, mi riferisco al bonus cosiddetto il super eco bonus, entra in vigore anch'esso oggi. Agevolazioni fiscali anche sulle seconde case, purché non di lusso, non ville di lusso, seconda casa, villetta, schiere incluse, varrà anche per il terzo settore. Gli incentivi poi potranno essere chiesti anche da chi demolisce o ricostruisce la propria abitazione, ville, castelli no. Sono stati rimodulati anche i massimali di spesa per gli interventi di coibentazione, viene esteso fino al 30 giugno 2022 solo per gli interventi di efficienza energetica per le case di edilizia popolare. Insomma, vale il 110% per tutti quelli che fanno operazioni di efficientamento energetico sulle prime o le seconde case. Adesso rapidamente, c'è troppo interesse nel mantenere i contanti, sì, ho capito. Guardate, tutti quelli che dicono ma perché hanno levato la pena se il commerciante si rifiuta di adottare il POS, e lo so perché sono leggi fatte a metà, perché c'è poi sempre qualche gruppo di interesse che vuole, siamo il paese che in Europa usa meno la moneta elettronica, ci sarà un motivo, poi se siamo anche uno dei paesi con il maggior nero in Europa, su. Molti mi chiedono, attenzione, quando arriverà un rinvio delle scadenze fiscali, soprattutto per gli autonomi, i professionisti. Stiamo attendendo perché il rinvio, da quello che abbiamo capito, è solo un rinvio ponte per arrivare a un altro rinvio sulle scadenze fiscali. Andiamo però adesso sui mercati. Giornata oggi è abbastanza piatta, devo dire, meno 0,20% Milano, meno 0,20% Parigi, meno 0,20% Londra, più 0,12% il Dow Jones. Più 2,70, meno 2,70 CNH, meno 2,5 Pirelli, meno 2,30 Banca Generali e Banco BPM, meno 2,20 Exor, meno 2 ST Microelectronics, meno 1,70 Fiat. A questo proposito sono usciti i dati sulle immatricolazioni auto a giugno. Allora, il mercato italiano fa meno 23%, Fiat fa meno 25%. E poi c'è stata la smentita, di ieri, è uscita un'indiscrezione di un'aggregazione tra Monte dei Paschi e Banco BPM, smentita seccamente dalla Banca Popolare di Milano. Commentiamo come sempre i mercati con Radio Cori sulle 24 ore. Paolo Paronetto, buonasera. Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori. Dicevo, giornata abbastanza debole, priva di grandissimi spunti. Da questo punto di vista anche l'America non è che abbia dato nessuna mano, e faccio notare però che l'oro già ieri aveva toccato i massimi dal 2011 a oltre 1800 dollari l'oncia, ma resta vicino ai massimi degli ultimi 9 anni. Venendo a noi, si è sgonfiato ovviamente dopo la smentita secca di BPM, tutta così la fibrillazione per Monte dei Paschi e Popolare di Milano. Certo, diciamo che la speculazione in questo caso è abbastanza divisa, nel senso, sicuramente un'operazione straordinaria può accendere l'interesse di alcuni investitori, ma d'altra parte gli analisti hanno subito fatto i calcoli, e in caso di un'aggregazione di questo tipo si stima comunque una necessità di rafforzamento patrimoniale. Quindi diciamo che, nonostante la smentita di Banco BPM, che ha dichiarato che non sono in corso colloqui con MPS per un'aggregazione, alcuni investitori hanno cominciato a mettere in conto questa possibilità, e vendendo il titolo Banco BPM, che ha perso il 2,26%, anche perché dopo che una volta che MPS avrà completato la cessione di circa 8 miliardi di NPL ad AMCO, e quindi sarà di fatto ripulita, la strada per un'aggregazione diventa probabilmente la via preferenziale, e soprattutto se andrà in porto l'OPS di Intesa Sudibanca, non rimangono molti possibili partner al di là di Banco BPM, che quindi viene indicato come il potenziale sposo di MPS in caso si prosegua su una strada di aggregazione. Quindi diciamo che, nonostante le smentite, gli investitori hanno venduto il titolo, anche Banca MPS ha chiuso in calo del 2,6%, ma ricordiamo che era stata ben comprata nei giorni scorsi, proprio dopo l'annuncio del via libera del CDA, dopo quello della Commissione Europea, alla vendita dei crediti deteriorati. Sì, ed è interessante il retroscena su questo. Cioè, cosa è successo ieri? Il presidente numero uno di Banco BPM, Giuseppe Castagna, è stato visto entrare da un giornalista nella sede del Monte dei Paschi, nella sede milanese del Monte dei Paschi, dove era presente la presidente Patrizia Grieco. E da lì è partita la rida di ipotesi: ah, ecco, si vedono perché ci sarà un'operazione. In realtà, poi, da quello che si è saputo, era una visita di cortesia. Però questo tradice lunga, Paolo, su quanto appunto basti anche così una visita, un ingresso, una visita di cortesia per far scatenare le voci sul mercato, che, a cui mancano anche spunti e pretesti delle volte, e su cui ci si interroga appunto su cosa capiterà al mondo bancario, ammesso e non concesso, ma una volta vista l'esito dell'operazione Intesa San Paolo su UBI, no? Certo, operazione che, cogliamo l'occasione per ricordare, arriverà sul mercato lunedì, partirà proprio lunedì 6 luglio per concludersi il 28, per dopodomani, venerdì, è atteso il CDA di UBI Banca, chiamato a esprimersi sulla congruità dell'offerta. Certo. Ovviamente tutte le attese sono per un parere di non congruità, e dopodiché la parola passerà agli azionisti, che naturalmente decideranno l'esito dell'operazione. Allora, grazie anche a Paolo Paronetto. Andiamo sul traffico e poi ci spostiamo a Berlino, perché, o meglio in Europa, perché è iniziata con oggi anche il semestre di presidenza tedesco. Un semestre tra i più difficili in assoluto, oggettivamente, visto le decisioni che deve prendere l'Europa. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Specializzazione. Sicurezza. Semplicità. Rendono uniche le soluzioni per la logistica di Replica Sistemi. Da oggi anche nei piazzali con Easy Yard. Easy Yard pianifica, traccia e controlla mezzi, merci e persone in ingresso, sosta e uscita da tutti i plants. Con strumenti di security management automatizza gli accessi, riduce i tempi di attesa degli autisti ed elimina le code. Scopri Easy Yard, lo Yard Management System. Su replica.it. Replica Sistemi. Replica successi. Zucchetti Group. Focus Economia. :22 Un'Europa di donne, e lo dico col massimo rispetto e anzi con molta fiducia, che Christine Lagarde, Ursula von der Leyen e adesso Angela Merkel sappiano dare una svolta. Devo dire, la Lagarde si mossa sulla falsariga di Draghi, ci mancherebbe. Perché oggi la Germania prende la presidenza, il semestre di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea. Ha tenuto un discorso, diciamo, programmatico, diciamo così, Angela Merkel al Bundestag, in cui ha detto che bisogna prepararsi anche a un'ipotesi di Brexit senza accordo. E vorrei fare il punto con la mitica, visto che qua parliamo di mitiche, mitica Adriana Ceretelli. Buonasera Adriana. Buonasera a tutti. No, adesso non è che io, non mi appassiona il tema del genere, però è da notare il fatto che appunto i ruoli chiave in questo momento, sia a livello politico che poi a livello anche invece finanziario in Europa, sono in mano a tre donne. Veniamo invece ai temi, ai contenuti. Angela Merkel, insomma, sta in questo momento guidando il tentativo di ricomposizione delle fratture, delle diverse posizioni in Europa. Oggi ha ammesso che le posizioni sono ancora lontane, servono colloqui, e ha detto sostanzialmente che bisogna anche accelerare su alcune procedure, e poi ha messo le mani avanti sulla Brexit, invitando anche a considerare un'ipotesi di un non accordo. Che cosa hai colto in particolare di questo e altri interventi di Angela Merkel, alla luce poi di quello che più ci interessa in questo momento, che è il Recovery Fund? Sì, secondo me vuole assolutamente chiudere sul Recovery Fund entro la fine di luglio. Ovviamente c'è molta cautela perché le difficoltà ci sono ed è inutile nasconderle, però io penso che ci riuscirà, forse non ci riuscirà il 17, ma credo che ci riuscirà comunque entro la fine di luglio, anche perché non è una scelta, sono proprio tempi tecnici che costringono ad accelerare questo tipo di decisioni, anche perché nel frattempo ci saranno un sacco di altri dossier. Sicuramente Brexit è l'altro dossier che pende sulla testa dell'Europa, oltre che della Gran Bretagna, e che è un dossier che non sembra mettersi per niente bene. Merkel, il fatto che accenni la Merkel, bisogna pensare che la Germania è il paese che ha i più stretti rapporti economici con la Gran Bretagna. La Germania è sempre stato il paese con l'Olanda che desiderava avere un accordo il migliore possibile con la Gran Bretagna, proprio perché c'è in gioco una posta economica non indifferente. Certo. Ma il fatto stesso che dica che potrebbe esserci un non accordo vuol dire che ritiene che i rischi di un non accordo siano maggiori di quelli di un accordo che invece tutti auspicherebbero, il che vuol dire anche delle ripercussioni sull'economia inglese di sicuro, ma anche su quella europea, nel pieno dell'incertezza sul Covid, il fatto che non si sa esattamente quanto grande sarà la recessione, se ci sarà una seconda ondata di virus. Quindi insomma, ecco, se uno si evitasse il problema Brexit sarebbe meglio. Sì, mi sembra un lusso che non possiamo permetterci, lo dico a livello di tutti europei, ci manca solo quello. Senti Adriana, molti hanno letto in alcune dichiarazioni della Merkel, non solo oggi al Bundestag ma anche in questi giorni, interviste, alcuni messaggi inviati all'Italia della serie, sì, attenzione, io mi sto battendo, la dico male ma per farmi capire, per convincere i paesi cosiddetti frugali e arrivare al recovery fund. Certo che però se voi continuate a dire che preferite indebitarvi per ritrovare i soldi sul mercato all'1,4% del BTP e non ne volete sapere del MES, diventa un po' difficile convincere che poi abbiate così, gli altri, che voi abbiate così bisogno di soldi. Ho capito bene quello che è stato un tentativo? Hai capito perfettamente, nel senso che è questa strategia del nostro governo, è una strategia al momento molto pericolosa, tra l'altro ci sto lavorando sopra proprio per il giornale. Mm-hmm. È molto pericolosa perché non solo appunto dà l'impressione, bisogna pensare che per avere quel MES con quella praticamente non condizionalità se non quella delle spese sanitarie è stata frutto di una dura battaglia anche quella con i frugali eccetera, proprio perché loro dicevano no, quello è il MES e quelle sono le condizioni e questo è, quindi troica, quindi tutto il resto. Quindi è stata una dura battaglia, si sono tirati fuori 540 miliardi di aiuti collettivi, non solo MES ma anche quelli per la disoccupazione e BEI per le imprese, e il fatto che il paese che sicuramente ne ha più bisogno, anche perché è quello, perché non ci, tutti dicono vabbè, ah l'Italia sarebbe, ma certo, ma l'Italia paga molto di più le emissioni sul debito di tutti gli altri, l'abbiamo in questo spiegato, momento certo. Grecia compresa, quindi il motivo per cui gli altri ancora non si sono mossi o magari non si muoveranno è perché possono, hanno meno convenienze, certo. Esatto, hanno una convenienza molto minore, mentre noi insomma indebitarci in proprio spendendo di più in un momento di scarse risorse mi sembrerebbe folle. Ma poi, guarda, abbiamo fatto un'intera puntata ieri su questo, perché sono d'accordo con te, quello che molti non ricordano anche dentro i 5 Stelle è che questo, per arrivare, come tu hai fatto bene a ricordare, a questo cambiamento del MES Covid e quindi con l'unica condizionalità delle spese sanitarie dirette o indirette, quindi anche le scuole, anche la messa in sicurezza dei lavoratori, c'è stato un braccio di ferro, quindi poi alla fine abbiamo ottenuto di avere uno scorporo e adesso diciamo no anche quello solo perché si chiama MES. Comunque non voglio tornare sui temi di ieri, spero veramente che l'Italia non dia questa immagine, perché sennò giustamente dai armi ai paesi frugali che dicono vabbè, allora se l'Italia non ha bisogno di quei 37 miliardi vuol dire che può finanziarsi sul mercato, vada, auguri, grazie, arrivederci. Invece io saluto Adriana Ceretelli, do appuntamento a voi domani dalle 17 in poi.